A tempo di sport con Claudio Arrigoni. Ci siamo interessati di sport paralimpico per molto tempo qui a Radio 24, in particolare a tempo di sport. Vogliamo continuare a farlo perché si avvicinano le Paralimpiadi di Londra, 29 agosto, 9 settembre, 4.200 atleti, 160 nazioni, 20 sport, un audience stimata in 3,8 miliardi di persone. Anche qui sarà la prima grande Paralimpiade dei social network. Claudio Arrigoni al microfono con Giorgio De Luca in redazione, Matteo Comes in regia. Tutti questi grandi numeri, ma la Paralimpiade parte da momenti che non sono stati così grandiosi e che sono stati vissuti a lungo da Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, vicepresidente del CONI, che è qui con noi. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti voi, ciao Claudio. Buongiorno, allora ci diamo del tu, ma perché frequentazioni ormai di tanti anni, siamo vecchi. Dicevo Luca, Paralimpiade di Londra, grande prima Paralimpiade dei social network, abbiamo visto l'audience stimata televisiva. Tu hai vissuto momenti invece un po' diversi quando questo sport era proprio pionieristico. Beh, io ho avuto, diciamo, la fortuna di viverlo al momento dell'alba, diciamo, perché poi comunque si comunicavano dei valori assolutamente straordinari che forse oggi stiamo sacrificando un po' sull'altare della spettacolarizzazione. Però ho avuto anche la fortuna, la mia ultima Paralimpiade è stata Atlanta, quindi di aver vissuto anche quell'accelerazione che poi ci ha portato oggi a Londra con quei numeri straordinari che giustamente citavi. Ecco, sì, abbiamo ricordato velocemente quando hai iniziato, ricordiamo la tua storia, prima grande atleta giovanile nel pentathlon moderno, lo sport che poi ti è rimasto un po' nel cuore, ma questo ce lo accennerai, poi atleta paralimpico a tutti gli effetti con grandissime vittorie nel nuoto anche paralimpiche. E poi, lo dico io, non lo devi dire tu, il più grande dirigente sportivo che il movimento paralimpico in Italia abbia avuto, questo con buona pace naturalmente di Roberto Marson e di coloro che ti hanno preceduto alla guida del movimento paralimpico, però effettivamente con te ci sono stati dei grandi cambiamenti ai quali accenneremo. Ma prima abbiamo detto un po' la tua storia, è una storia di atleta olimpico, poi paralimpico e poi di dirigente. Ci racconti questi tre momenti, che cosa ti hanno dato? Ma io credo che, insomma, se dovessi immaginare una colonna sonora della mia vita, non potrei non immaginarla contraddistinta da questa immagine dello sport, perché lo sport da pentatleta prima mi ha formato, poi purtroppo a 17 anni in qualche modo mi ha tradito, ma sempre a 17 anni dopo avermi tradito, grazie a quello che mi aveva insegnato, mi ha consentito di tornare ad essere non soltanto un atleta, riprendendomi quei sogni che pensavo si potessero essere, come dire, infranti sotto il peso di un cavallo, perché quattro Paralimpiadi per me sono state come quattro Olimpiadi per come le ho affrontate, per i risultati e per come l'ho vissuta, ma nello stesso tempo mi ha consentito anche di riappropriarmi della mia vita e di sognarla, così come oggi poi, da uomo fortunato come credo di essere, l'ho realizzata, continuando oggi da dirigente sportivo in un'ottica di servizio a tentare di restituire allo sport almeno una parte di quello che mi ha regalato. Quattro Paralimpiadi che partono con quella di Stoke Mandeville, New York, era una Paralimpiade un po' divisa, dell'84, poi Seoul 88, Barcellona 92, chiusura con Atlanta 96. Arriviamo al capitolo dirigenziale, Luca, con te il CIP cambia notevolmente. Perché? Perché si apre... Allora, il CIP non è che cambia, il CIP nasce, certo. Penso che io mi candidai subito uscito dall'acqua di Atlanta, mi candidai alla vicepresidenza dell'allora Federazione Italiana Sport Disabili, che rievocava anche nella terminologia dell'inciviltà dei momenti, no? Nell'utilizzo di queste parole che poi spesso non dicono nulla, e da quando poi nel 2000 ho assunto la presidenza della federazione, io ho da subito immaginato di poter realizzare il comitato alla stregua di quello che era avvenuto con il CONI negli anni molti anni fa, perché ritenevo che il nostro mondo necessitasse di un modello organizzativo nuovo che consentisse, come dire, l'espressione di professionalità specifiche nei singoli sport, ma soprattutto necessitasse di maggior dignità, e attraverso il comitato paralimpico, che non è un modello organizzativo, io ce lo tengo sempre a dire, è un modo di pensare. Attraverso il comitato paralimpico noi abbiamo dato dignità al movimento, ma abbiamo realizzato anche l'avviamento di un processo culturale. Sembra retorica, ma io ci ho sempre creduto e ci continuo a credere, perché anche il trasferimento delle discipline alle federazioni olimpiche, il fatto di responsabilizzare dei dirigenti sportivi tra virgolette normali su un tema così importante dello sport italiano come quello paralimpico, significa far crescere una cultura nel paese che possa arrivare a concepire lo sport paralimpico per quello che in effetti oggi è, anche all'interno del panorama sportivo internazionale e anche all'interno del CONI, cioè un movimento di grandissima rilevanza. I numeri della Paralimpiade di Londra ne sono una testimonianza, è, io credo, il secondo evento sportivo più importante a livello planetario per numero di paesi coinvolti, perché 160 paesi non sono pochi, però ecco, per far tutto questo ho dovuto costruire questo percorso che ci ha portato oggi a quel Comitato Italiano Paralimpico che io sono orgoglioso di continuare a presiedere, sono orgoglioso di aver realizzato questo sogno, ma con me tutti coloro che in qualche modo mi hanno lasciato fare, a partire dal mio consiglio, i miei vicepresidenti, i presidenti di federazione, coloro che in qualche modo si sono fidati. Chiudo: alla mia prima elezione nel 2000 qualcuno dalla sala mi fece arrivare una foto che mi ritraeva sul podio di Atlanta e sul retro c'era scritto "non ti dimenticare mai da dove vieni". Beh, io credo che da dirigente sportivo di aver dimostrato di non essermi mai dimenticato di essere stato un atleta, perché ho sempre pensato prima di tutto a loro. E questo possiamo naturalmente anche testimoniarlo naturalmente in prima persona. Luca, c'è stato un momento in cui hai detto ma è difficile, non ce la faccio, proprio per queste difficoltà culturali che hai accennato anche poco fa? Ma ce ne sono stati tantissimi di momenti. Devo dire che questi ultimi 10 anni sono stati 10 anni per me durissimi, anche fisicamente, lavorativamente parlando, ma anche dal punto di vista morale. Io mi ricordo, anche per solo far approvare la legge istitutiva del Comitato Paralimpico, che mi sono consumato i copertoni per i corridoi della Camera e del Senato a tentare di convincere, no, sull'utilità di questo, di questa dimensione, perché sembrava che fosse qualcosa contro qualcuno, in realtà non era così, come abbiamo dimostrato. Ma insomma, io sono passato per tanti puffetti sulla guancia, cioè, quindi le mortificazioni di una attenzione più solidaristica che non culturale su quello che era il progetto. Questo accadeva tanti anni fa, oggi è cambiato, oggi i dirigenti del Comitato Paralimpico sono rispettati, ovviamente è sempre una strada in salita, però tante volte mi sono chiesto chi me lo fa fare, però mi sono sempre ricordato che quando la mattina alle 5 mi svegliavo per essere in acqua alle 6 sognando una Paralimpiade o un'Olimpiade prima dell'incidente. E questo a dimostrazione l'atleta olimpico e l'atleta paralimpico non hanno differenze. Scusami dell'interruzione. No, anche allora da atleta mi chiedevo chi me lo fa fare. Te lo fa fare l'amore, la passione. Per me lo sport è tutto, e soprattutto poter un giorno lasciare un Comitato Italiano Paralimpico, perché poi il tempo di lasciare viene per qualsiasi tutti noi, lasciarlo per quello che è e essere ricordato non tanto per chi ha gestito il potere, ma per chi ha creato qualcosa e è sempre stato dalla parte degli atleti. Io credo che poi nella vita si viva anche di soddisfazioni morali. Assolutamente sì. Luca, poi andremo a parlare dei nostri atleti e della Paralimpiade di Londra, ma giusto per concludere questo capitolo che riguarda anche te, hai parlato anche del futuro, e il futuro potrebbe essere la scomparsa del movimento del Comitato Paralimpico. Come sai, Claudio, io però, ma questa è una mia malattia, probabilmente frutto della formazione sportiva, io non ho mai fatto nulla che non fosse programmato e non avesse un senso rispetto all'obiettivo reale futuro che mi prefiggevo. Io nel 2000 ho immaginato di far morire la Federazione Italiana Sport Disabili per far nascere questa creatura che è nata e cresciuta, oggi è qualcosa di importante nel paese, riconosciuto, ma nello stesso momento pensavo nel 2000 e continuo a pensare oggi che forse sarebbe bello un giorno che l'unica grande famiglia dello sport italiano si riunisca realmente in un unico comitato olimpico e paralimpico nazionale italiano. Questo è un sogno, certamente è un sogno che a mio modo di vedere si potrà realizzare pure in tempi non eccessivamente lunghi, ovviamente necessita di un percorso di crescita culturale e anche di contagio virtuoso sull'importanza del mondo paralimpico, ma che è quello che stiamo facendo in un'ottica riabilitativa con i presidenti delle federazioni olimpiche che sono nel movimento paralimpico. Penso al ciclismo, alla scherma, al tiro con l'arco, al tennis tavolo, insomma tutti straordinari colleghi del Consiglio Nazionale del CONI che si sono innamorati del nostro movimento e che hanno cominciato a seguirlo e a curarlo, chi con maggiore difficoltà, chi con meno, ovviamente non è tutto facile, ma noi lavoriamo affinché si vada sempre meglio, ma lo stanno facendo con grande amore e passione, e io credo che questo sia importante, che non ci sia più una persona disabile che se ne occupi, ma che altrettanto possa essere fatto da una persona dirigente sportivo che ama lo sport e per il quale lo sport è uno solo, olimpico e paralimpico. Ci fermiamo solo pochissimi secondi per il traffico in queste giornate in cui è molto importante perché molta gente è in movimento, poi torniamo con Luca Pancalli a parlare di Paralimpiadi. A tempo di sport. Claudio Arrigoni al microfono a parlare di sport paralimpico e di Paralimpiade. Inizierà il 29 agosto per chiudersi il 9 settembre la Paralimpiade di Londra. Con noi Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano. Allora Luca, cosa dobbiamo aspettarci da Londra 2012? Allora, Londra devo dire che per me già rappresenta una grande soddisfazione, perché arriviamo con il maggior numero di atleti qualificati da Seul in poi, il che non ha, significa che evidentemente si è lavorato bene non soltanto per quanto riguarda la cura del top level, ma anche e soprattutto in chiave promozionale, perché se si arriva ad avere tanti qualificati è anche perché si è creato una crescita nel movimento in tutte le discipline importante. È importante perché è la prima grande Paralimpiade dove ci apprestiamo a vivere con il modello organizzativo nuovo, quindi con i presidenti di federazione olimpiche o di matrice esclusivamente paralimpica che hanno lavorato per portare i loro atleti, ed è sicuramente una Paralimpiade che io non, generalmente non faccio mai previsioni, ma credo che ci possa veramente regalare qualcosa di positivo. In qualche modo epidermicamente me lo sento e spero che effettivamente le mie sensazioni non siano tradite. Non ti faccio fare nomi perché non sarebbe giusto che il presidente del Comitato Paralimpico li faccia, magari poi li faremo noi, ma quando tu non ci sarai. Invece c'è già una grande vittoria, e questo credo sia una vittoria anche proprio del lavoro che ha fatto Luca Pancalli in questi anni. L'Italia sarà il paese, e qualche volta bisogna anche dire le cose che vanno bene, però è così, l'Italia sarà il paese dove la Paralimpiade sarà più vista a livello televisivo, perché saranno addirittura due reti che la trasmetteranno, cioè la Rai con Rai Sport 1 e le finestre su Rai 2, Sky che avrà addirittura diversi canali per seguirla. Credo che questo sicuramente non succede negli altri paesi, ma dimostra che forse un po' di cultura è cambiata in questi anni, quello che abbiamo detto anche poco fa. Ma io credo che no, un po' è cambiato tantissimo, e vedi anche l'aver utilizzato una strategia che non era esclusivamente rivendicativa, il solito magari piagnisteo, no, del movimento disabile, di un certo, dove si chiedeva perché noi si parla poco, perché siamo i disabili. No, io ho tentato in 10 anni invece di conquistarmi le persone, di coinvolgerle, di innescare un meccanismo virtuoso e culturale. Oggi la presenza di Rai e Sky non è una presenza dovuta perché c'è il movimento paralimpico, ma è una presenza voluta dalla Rai e Sky, e questa è la cosa più importante, perché è una presenza responsabile, cioè la condivisione di seguire sia pur nei modi e nelle forme che ovviamente probabilmente in parte saranno pure leggermente diversi rispetto alla parte olimpica, ma c'è la condivisione di voler seguire un grande evento sportivo, raccontando storie di atleti, straordinarie storie umane, ma raccontandole nel rispetto della loro dignità di atleti. Beh, questo per me è importantissimo, perché è quella dignità che a me, almeno per tanti anni da atleta, quando si parlava appunto degli albori, mi è sempre stata negata. Quindi in qualche modo è qualcosa che, della quale io vado fiero, perché oggi i miei atleti possono godere di essere trattati come qualsiasi altro atleta, un po' come è stato una sorta di, permettetemi, di orgasmo mentale il fatto di vedere aperti i gruppi sportivi dei corpi dello Stato e vedere i miei atleti paraplegici piuttosto che amputati eccetera con le tute con scritto polizia, fiamme gialle, polizia penitenziaria o guardia forestale. Beh, sono piccoli segnali, ma di un paese che sta cambiando, e io ho sempre creduto nei grandi processi riformatori culturali e non nelle rivoluzioni che spesso lasciano il tempo che trovano. Ci saremmo arrivati, perché credo questa sia un'altra grande rivoluzione. Solo immaginare 10 anni fa che ci fossero atleti nei gruppi, atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari, sarebbe stato probabilmente non difficile, impossibile. Quindi un'altra vittoria fra virgolette politica, ma che per il futuro è molto molto importante. Luca, prima di chiudere con una sorpresa anche per te, se dovessi dire a qualcuno: guarda, devi vedere la Paralimpiade, perché? Che cosa diresti? Perché io, nonostante i miei 31 anni di carrozzina, nonostante i miei 31 anni, molti dei quali passati da atleta disabile, o i miei anni precedenti come pentatleta, ancora mi emoziono e ancora provo la gioia di emozionarmi e commuovermi quando un mio atleta sale sul podio, o anche quando un mio atleta non ce la fa, perde e magari si dispera. Perché ha qualcosa di in più, consentimelo, nonostante il vicepresidente del CONI, ha quel qualcosa in più rispetto al mondo olimpico che la rende unica, è ancora umana, e di quell'umanità della quale ogni paese, ogni società civile dovrebbe imparare a nutrirsi. Sono assolutamente d'accordo con te, tant'è che lo ripeto spesso, tu ne hai vissute 10, io vado per la mia 9ª o 10ª, adesso non ricordo bene anch'io Paralimpiade, avendo vissuto anche quelle considerate al gradino più sopra, e sinceramente la Paralimpiade l'ho sempre trovata più divertente, più appassionante, piena di storie. Addirittura Tenny Gray Thompson, grandissima atleta paralimpica in carrozzina, oggi commentatrice per BBC, dice: no, dobbiamo assolutamente tenere staccate le Olimpiadi e Paralimpiadi, perché non dobbiamo, fra virgolette, sporcare i valori paralimpici con quelli olimpici. Questo naturalmente è un paradosso, però sta a significare quanto nella Paralimpiade ci sia di bello. E volevo chiudere con te, però, facendo salutare una persona che sarà con noi a Londra, visto che ci sarò anch'io, ma sarà con noi a Londra con un compito particolare. Oscar De Pellegrin, buongiorno. Oh, buon pomeriggio a tutti. E allora Luca, ciao Oscar. Ecco, c'è il portabandiera della Paralimpiade, mi piacerebbe che lo salutassi. Guarda, io Oscar, vabbè, a parte che lo sento spesso, l'ho fortemente voluto come portabandiere, perché Oscar io credo che sia, al di là della e non l'ho fatto per amicizia, perché ci conosciamo da una vita, sarebbe troppo meschino, ma l'ho fatto perché Oscar secondo me è veramente la sintesi dello sport paralimpico, colui che ha vissuto come me tanto passato, ma colui che veramente, anche per come è impegnato sul suo territorio per far crescere e divulgare lo sport, beh, insomma, secondo me è veramente la più bella sintesi dello sport paralimpico e la più bella immagine che potremmo avere entrando nello stadio a Londra. Oscar, sono parole che pesano, Grazie veramente, guarda, sentire il mio presidente che insomma dice queste parole sul mio conto mi fa enormemente piacere. L'unica cosa che io dico, ecco, quello che faccio, come sicuramente lo farà anche lui, è perché mi sento di fare, mi sento di divulgare questi valori sportivi, avvicinare sempre più persone allo sport, che è veramente un elemento fantastico di inclusione sociale. Quindi grazie veramente Luca di cuore. Grazie Luca. Pensa a tirare bene a Londra. Sicuramente questo è il mio obiettivo. Poi sai, tutto aiuta e sicuramente è un grande stimolo portare la bandiera, okay. Però primo obiettivo è il campo sicuramente. Okay. Luca, grazie allora, grazie a Londra 2012. Grazie, ciao Claudio, ciao. Ciao. Allora, Oscar, dicevamo parole che pesano. Oscar De Pellegrin è il portabandiera dell'Italia appunto a Londra 2012. Scelto, come abbiamo sentito, da Luca Pancalli, che ha avuto belle parole davvero anche in questo momento per lui. Oscar, per raccontare in pochissime parole, ma poi ci racconterai tu meglio, 5 Paralimpiadi estive, sempre presente, ma qui quando sbaglio naturalmente mi correggi, da Barcellona, 5 medaglie di bronzo e un oro conquistati in 2 sport diversi. Prima tiro a segno con la carabina, il bronzo a Barcellona 92 e Atlanta 96, poi il tiro con l'arco dove hai cominciato facendo praticamente un salto nel buio, no? Perché andavi già benissimo nel tiro a segno, ma non so chi te l'ha fatto fare, adesso ce lo racconti, però anche lì grandi soddisfazioni, un oro a squadre, un bronzo individuale a Sydney 2000, bronzo a squadre a Pechino 2008. Quindi due sport diversi, un salto nel buio, però tante grandi soddisfazioni. Sicuramente in questi 20 anni di attività sportiva sono grandissime le emozioni che ho potuto apprezzare e sentire sulla mia pelle. Ecco, ritornando sul fatto che hai detto prima, io ho iniziato a Barcellona 92 col tiro a segno e già mi ero espresso abbastanza bene cogliendo la medaglia di bronzo, poi Atlanta ho bissato questa medaglia e da là ti devo dire che è stata proprio la svolta, la decisione più importante della mia carriera sportiva, perché essendo in una disciplina dove ero tra i favoriti, così possiamo dire, dove riuscivo sempre a fare il risultato con una certa costanza, decidere di passare a un'altra disciplina che potrebbe anche sembrare abbastanza vicina sull'aspetto mentale, sull'aspetto della preparazione della gara, però poi nello svolgimento della parte atletica, sportiva o tecnica sicuramente è tutto un altro sport. Quindi è stata una scommessa che ti devo dire sinceramente che quello che mi ha fatto decidere è stato perché il tiro con l'arco è l'unica disciplina che non ha distinzioni fra atleti disabili e normodotati. A valere c'è solo un unico regolamento e che conta, che vale, gli atleti di punta che vanno avanti sono chi fa più punti. Quindi questa mi sembrava il metro di misura più bello per potersi misurare con tutti e che anche loro possono apprezzare le nostre imprese sportive. Questo è stato il movente più forte, poi da là insomma tanto impegno, tanto sacrificio, grazie ai tecnici che mi hanno seguito, insomma ho iniziato una nuova carriera col tiro con l'arco e già subito a Sydney è stato veramente diciamo la prima Paralimpiade col tiro con l'arco, ma col botto, perché ho portato a casa 2 medaglie, una d'oro e una di bronzo, quindi veramente una cosa grandissima, una grande scommessa, ma io avvertivo dentro di me che le possibilità c'erano, avevo in mano quella percezione di un risultato ad alto livello e quindi mi sono buttato corpo e anima e posso dire che ho fatto veramente una bella scelta oggi. Ah, sicuramente, visto quello che è arrivato. Prima di accennare un po' al tuo percorso sia sportivo sia umano, hai parlato del fatto che in questo sport non ci sono sostanzialmente differenze. Ma davvero tirare in carrozzina non pone nessun problema rispetto a tirare in piedi? Guarda, sicuramente se andiamo a vedere proprio le cose nella parte fine, sicuramente noi anche se siamo seduti appoggiati a uno schienale, però siamo senza la parte addominale, quindi la parte certo. Muscolare che ci tiene ritto il corpo, quindi sicuramente un po' di deficit noi lo abbiamo, ma di questo non dobbiamo nemmeno metterlo nell'atto pratico, nell'atto sportivo. Io vedo che avendo la possibilità di accedere facendo i punteggi giusti anche a un'Olimpiade, è già successo con la nostra Paola Fantato, se ci ricordiamo, certo, nel certo. 96 ha fatto Olimpiadi e Paralimpiadi, quindi è solo la bravura dell'atleta che va premiata, quindi questo è una cosa fantastica, se anche noi siamo, mettiamola così, un pelo messi in condizioni un po' più precarie degli altri atleti, non importa, ma noi quello che ci contraddistingue è proprio questo nostro spirito agonistico, questa nostra voglia di arrivare, di impegnarsi, di centrare l'obiettivo, e questi sono tutte cose che ci dicono che siamo nella strada giusta, insomma, ecco. Con Oscar De Pellegrin, portabandiera della Paralimpiade, portabandiera azzurro della Paralimpiade di Londra 2012. Stiamo parlando appunto del prossimo appuntamento con i Giochi Paralimpici. Prendiamo una piccola pausa, poi torniamo a parlare di sport paralimpico, grande sport paralimpico. A tempo di sport. Paralimpiade di Londra, 29 agosto, 9 di settembre, saranno i giochi paralimpici, giochi per atleti con disabilità. Siamo insieme a Oscar De Pellegrin, portabandiera azzurro a Londra 2012. Oscar, hai fatto un bel accenno prima a Paola Fantato, mi sembra giusto, perché questo dobbiamo ricordarlo, prima di Oscar Pistorius, prima di Nathalie Dutoit. Paola Fantato, vanto dello sport azzurro, ha tirato lei in carrozzina per la prima volta nella storia dello sport mondiale sia alla Paralimpiade Atlanta 96 che all'Olimpiade sempre di Atlanta 96. È stato un bel riferimento, Paola, Oscar? Sicuramente sì, ha dato tanto allo sport, sicuramente ha fatto tanto per il nostro movimento, anche promozionando questa disciplina, e è stata veramente una grandissima atleta. Questo poter partecipare alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi è stato per tutti, io credo, il consacramento che veramente in questo sport veramente è possibile gareggiare alla pari. Parliamo di te, Oscar. Prima abbiamo accennato i tuoi successi sportivi. In carrozzina da quando avevi, credo, 20-21 anni, adesso poi magari ce lo dirai, questo incidente in campagna. E poi, che cosa è successo? Come ti scatta la molla, torno a fare sport? Guarda, mi hai fatto una bella domanda. Sì, come hai detto, avevo 21 anni quando ho avuto questo incidente in campagna col trattore e purtroppo ci sono finito sotto, forse quello era il mio destino, ma l'unica cosa bella che posso dire è che sono ancora qua a poterlo raccontare, perché di solito non è che vada così bene. Quindi sono contento e anche fortunato in questo senso. Sicuramente il momento dopo un incidente non è mai facile, io dico sempre un ritornare a rivivere di nuovo, a riscoprire una vita nuova, perché non si hanno più quello che si aveva prima, di punti fissi, sapere cosa si può fare, come poter esprimersi, e quindi è stata veramente dura. L'unica mia fortuna è stata di aver incontrato un altro ragazzo che è venuto a trovarmi, che si chiama Renzo Colle, che lui aveva partecipato alle Paralimpiadi del 68 a Tel Aviv, quindi lui era un veterano dello sport paralimpico. Ah sì, perché poi quelle Paralimpiadi furono veramente Paralimpiadi, esatto, storiche anche per l'Italia, perché fra l'altro Roberto Marson, che è stato poi un altro, esatto, grandissimo, esatto, dirigente dello sport paralimpico, fu eletto l'atleta dei giochi, vinse credo 10 medaglie, passa, ma comunque furono gran belle Paralimpiadi. Esatto, lui era assieme al nostro Roberto Marson, e quindi lui poi ha proseguito a divulgare lo sport disabili e ha affascinato anche me. Io lo devo ringraziare a vita, perché prima dell'incidente, lavorando in officina e lavorando nell'azienda agricola, non avevo tempo sicuramente per pensare allo sport o quant'altro, quindi è stata una cosa che ho scoperto dopo l'incidente. Ma posso dire a 25 anni di distanza che veramente quello che mi ha dato lo sport credo che nessuna altra cosa al mondo potesse darmi. Credo che, insomma, l'impegno e il sacrificio per arrivare a un risultato, ma anche poi apprezzare, insomma, quelle sensazioni che non sono mai facili esprimere a parola quando sali su un podio mondiale, ma soprattutto paralimpico, che non dimentichiamo, le Paralimpiadi come le Olimpiadi sono un evento a sé, non hanno niente a che vedere a europei e mondiali, è una veramente un evento dove ci si sente in una famiglia, perché puoi toccare con mano, puoi dialogare, conoscere altre culture, altri ragazzi. Poi nell'avvicinarsi delle gare vedi che tutti giustamente stanno nelle sue e si concentrano, perché è un evento che si svolge ogni 4 anni e tutti vogliono, insomma, raccogliere i frutti del loro impegno, ma poi il bello, quello che questi sono i valori che insegnano veramente lo sport, alla fine è sempre una festa ancora tutti assieme, sia vincitori che vinti. Sì, quindi questo poi fra l'altro vale ancora di più nello sport paralimpico, perché lì veramente c'è la differenza fra i mondiali o gli europei e la Paralimpiade, è una differenza abissale rispetto a quanto invece può succedere magari nello sport olimpico, dove comunque i mondiali sono sempre una manifestazione anche di altissimo livello, lo sono anche al mondo paralimpico, magari molto meno seguita. Sì, sicuramente c'è differenza di numeri e organizzazione, però io credo che quello che caratterizza l'evento olimpico e paralimpico è proprio vivere nel villaggio assieme, che forse nemmeno i mondiali che fanno normali, non fanno un villaggio apposta, e quindi è proprio questo che io apprezzo, e là che puoi apprezzare i veri valori sportivi vivendo assieme dei tuoi avversari, vivendo assieme dei tuoi compagni e potenziali nuovi amici che puoi farli, quindi è veramente un elemento fantastico. E tu hai fatto parte anche della nazionale della Fitarco nei primi anni 90. Cosa ricordi, adesso non tanto di quell'esperienza della Fitarco, ma della tua carriera, cosa ricordi con maggior affetto? A quale Paralimpiade sei più legato? A quali momenti sei più legato? Guarda, io sono legato a due eventi fondamentali. Il primo, è inutile nasconderlo, il primo è Barcellona. Andavo a Barcellona che quasi quasi non mi rendevo conto di cosa andavo a riscontrare. La tua prima Paralimpiade. Esatto, la mia prima Paralimpiade, e nemmeno sapevo com'era il mio livello in base agli avversari che trovavo, e quindi è stato veramente una sorpresa che io mi sono trovato sul podio, ma credimi, è voluto tempo per capire l'impresa che avevo fatto, perché quando sei un outsider, io a Barcellona ero un outsider perché nessuno mi conosceva, non hai niente da perdere, quindi se hai le qualità e vai là tranquillo e deciso, riesci a fare la tua prestazione e veramente alla fine ti trovi nel podio. Però io dico, l'altro elemento, che questo è ancora più forte, è stato Sydney, perché arrivavo da questo cambiamento che abbiamo accennato prima, ma poi era un dovere rifare il risultato, e là io credo che sia la differenza tra un campione vero e un buon atleta, cioè sapere ritrovare le forze, le sensazioni dentro di sé per poi riproporre e rifare il risultato, e Sydney è stato veramente un coronamento di veramente 4 anni vissuti nell'incertezza, nelle proprie sensazioni, ma mai avendo un contatto con i propri avversari, quindi è stata una cosa veramente grande. Credo che in quel momento, quando ho visto il tricolore salire dentro di me, guarda, ho solo la pelle d'oca anche adesso a parlare, ma sono cose che non si possono esprimere a parole. Io augurerei a tutti di provare queste fortissime emozioni. E sarà un'emozione fortissima quando quel tricolore invece dovrai portarlo, entrando nello Stadio Olimpico di Londra. Sicuramente questo è una grandissima cosa che Luca e tutta la giunta del CIP hanno voluto fare, e veramente li ringrazio di cuore. Io vedo come un coronamento di una carriera dedicata allo sport, quello sì, ma essere là davanti, io credo, a tutto il gruppo italiano, portare il tricolore, la maglia della tua nazione, sia veramente una cosa importantissima, è un peso ulteriore che va a caricarsi sulle spalle, anche perché credo che non sia solo l'aspetto di portare la bandiera, ma poi è i valori che ci sono racchiusi sotto la bandiera, quindi è questo che il mio compito che vedo primario, e devo essere bravo a svolgerlo, magari ai nuovi arrivati a Londra per la prima volta, e insomma far capire cos'è lo sport, far capire i valori, come apprezzare, come condividere, stare in gruppo, insomma io credo che sia anche questo un ruolo fondamentale che il portabandiera deve svolgere, quindi veramente dall'altra credo che sia anche un ulteriore stimolo a far bene. Perché non dimentichiamo che questa sarà la mia ultima Paralimpiade, quindi la sto preparando con la massima cura, con il massimo puntiglio, come del resto ho sempre fatto, ma credo e voglio veramente almeno non lasciare dubbi. Questo naturalmente te lo auguriamo. Poi sei stato da napoletano insieme a Valentina Vezzali a ricevere il tricolore da portare a Londra, che cosa vi siete detti col presidente? Guarda, è stata una giornata fantastica, era un clima veramente sincero, e vedere racchiuso insomma l'Italia sportiva olimpica e paralimpica, secondo me è un ottimo segnale, e dobbiamo continuare su questa strada, perché io credo che nello sport l'impegno, il sacrificio, la vittoria, la sconfitta sia comune a tutti, quindi è questo anche fondamentalmente le quattro parole che abbiamo fatto con Napolitano, il fondamento era questo, io volevo lanciare dei messaggi e spero di esserci riuscito. Questo anche vedendo le immagini che sono girate per le varie televisioni è un messaggio che è passato molto, perché vedere te di fianco a Valentina, di fianco al Presidente della Repubblica, credo sia stato un messaggio grande di normalità dello sport e di questo va dato atto naturalmente a tutti voi che avete fatto parte della crescita di questo movimento paralimpico. Alle Paralimpiadi ci saranno atleti appunto in carrozzina, come sei tu, ma ci saranno atleti amputati, ci saranno atleti non vedenti o ipovedenti, ci saranno atleti celebrolesi, tantissime disabilità che fanno sport e lo fanno nella maniera migliore. Per chiudere quindi anche con te, così come ho fatto con Luca Pancalli, se dovessi dire a qualcuno che non conosce lo sport paralimpico, lo conosce poco, perché? Essere lì o davanti al televisore, addirittura a Londra, in uno stadio, o comunque nei vari stadi, anche in Italia, dove si fa sport paralimpico, qual è il motivo vero, che può spingere una persona a vedere la Paralimpiade, ad appassionarsi di sport paralimpico? Perché credo fondamentalmente che sicuramente sono dei magnifici eventi sportivi come lo sono le Paralimpiadi, però sicuramente sono più sinceri, sono più familiari, sono come si può dire, più a portata di tutti. Quindi io inviterei tutti a vedere qualche evento delle Paralimpiadi o venire qua a Londra, visto che abbiamo l'opportunità di averle così vicino, per toccare con mano questa meravigliosa famiglia paralimpica che veramente tanti valori, oltre agli risultati sportivi, sa dare. Questo fondamentalmente mi sento di dire. Grazie Oscar. Oscar De Pellegrin, portabandiera azzurro ai Giochi Paralimpici di Londra 2012, che cominceranno il 29 agosto, e proprio il 29 agosto sarà il giorno in cui Oscar De Pellegrin sfilerà allo Stadio Olimpico di Londra 2012 con la bandiera. Grazie ancora Oscar, naturalmente in bocca al lupo per la tua Paralimpiade, per la Paralimpiade azzurra. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E allora ci fermiamo per il traffico e poi torniamo per un'altra bella voce del grande sport paralimpico azzurro. A tempo di sport. Stiamo parlando di Paralimpiade di Londra 2012, che partirà il 29 agosto per chiudersi il 9 settembre. 98 gli atleti azzurri, abbiamo ascoltato la voce del gran capo del movimento paralimpico italiano, Luca Pancalli, il portabandiera azzurro Oscar De Pellegrin, e chiudiamo con un esordio paralimpico, ma un esordio di quelli che pesano e pesano tanto, perché ci aspettiamo molto da Assunta Legnante, ex campionessa di getto del peso, e poi a novembre diventata cieca e con la voglia naturalmente di andare avanti a fare sport, e questa volta a livello paralimpico. Assunta, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno. Allora, ho detto un esordio di quelli che pesano, perché poi alla fine ci si aspetta tanto da te, Assunta. Ah, io pensavo nel senso fisico. No, quello lasciamolo da parte. Parliamo di senso sportivo in questo caso e di risultati. Naturalmente, tu hai cominciato da poco, con il getto del peso paralimpico, in questo caso categoria F11, cioè non vedenti, subito. Due gare, due record del mondo. Adesso non ricordo neanche quanto sia stato l'ultimo che hai fatto, ma comunque ben oltre i 15 metri. E poi anche il lancio del disco. Insomma, arrivi alla Paralimpiade con un po' di peso sulle spalle, ma ripetiamo, sportivo, e di risultati. Ti correggo soltanto perché sono quattro gare, quattro record Ah, ecco, fantastico, va bene, come volevasi dimostrare, brava Assunta. del mondo. Sì, diciamo che io sono proprio una esordiente ai primi passi proprio in questo nuovo mondo. Però ecco, già con buone aspettative, con un bel peso da portare, anzi da lanciare. Da lanciare. Eri già ipovedente, giusto, Assunta? Comunque con un po' di difficoltà visive quando lanciavi ai vari campionati europei piuttosto che campionati italiani di atletica leggera, e poi novembre 2012 la vista cala del tutto. Sì, diciamo che poi alla fine soltanto a fine marzo, inizio aprile, abbiamo capito insieme ai medici che non c'era più nulla da fare, che la vista non avremmo ricuperata e abbiamo deciso di lasciar stare i dottori e tutto il resto e ridarci allo sport. Assunta, che cosa ti spinge a dire vabbè, ma vado avanti a fare sport e voglio andare avanti, non poteva essere altrimenti, ad alto livello? Spinge la voglia, comunque la vita non è finita, non finisce lì. Io dico sempre che la cecità non è una condanna fisica, ma è più mentale. E quindi il fermarsi, come si dice sempre, no? Chi si ferma è perduto. Ecco, io non mi sono perduta, non mi sono persa, anzi, ho ritrovato la strada. Fra l'altro, ricordiamo chiamiamola la tua precedente vita, perché tu alle Olimpiadi, insomma, le hai vissute. Poi ci sono state, fra l'altro, un po' di polemiche, no? Olimpiche nei tuoi riguardi. Sì, io in poche parole nel 2004, dopo aver fatto il record italiano, tre normodotati naturalmente, e aspettavo la convocazione ad Atene, invece non è arrivata perché il CONI non ha ritenuto idonea la mia situazione medica, e nonostante avessi già fatto anche i giochi del Mediterraneo per loro, e quindi sono rimasta a casa. Invece nel 2008 con altre visite specifiche ho fatto Pechino e poi vabbè nel 2009 è successo quello che è successo. E, Pechino che non è andata benissimo, ma già esserci era molto importante, però quello a cui tenevi molto era questo Atene 2004. Sì, Atene 2004 perché comunque con la mia misura fatta 12 giorni prima della gara di Atene, sarei arrivata tra le prime sei e quindi una bella soddisfazione sarebbe stata. Assolutamente. Adesso Paralimpiade. Che cosa ti aspetti dalla Paralimpiade, Assunta? Un'esperienza diversa ma allo stesso tempo emozionante, perché comunque l'Olimpiade o Paralimpiade, come vogliamo chiamarla, alla fine secondo me non ha differenze. L'emozione è sempre quella, la difficoltà nel vincere una medaglia è sempre quella, e mi aspetto comunque di affrontarla con molta più freddezza e con meno molto emozione della precedente. Guarda, avendo partecipato a diverse Paralimpiadi, sono convinto che quando sarai sulla pedana di Londra 2012 l'emozione sarà tanta, anche perché, ripeto quello che abbiamo detto all'inizio, sei predestinata a vincere, questo non è mai bene, giusto? Infatti non è mai bene essere destinati a vincere, però ecco, con l'unica differenza, adesso farò una delle mie battute, a Pechino avevo di fronte la fiamma olimpica che mi emozionava tantissimo mentre lanciavo, adesso anche se ce l'avessi di fronte non la vedo, quindi è meno emozione. Assunta, c'è stato un momento che appunto fra quel novembre abbiamo detto e quel marzo in cui tu non hai mai perso la speranza, avevamo detto, poi c'è stato un momento in cui comunque avevi già cominciato a pensare comunque non smetto di fare sport. Io avevo abbandonato del tutto, pur nonostante avessi contatti con la vecchia federazione, non mi hanno mai abbandonato, e con il corteggiamento della FISPES, del CIP, a dire la verità io fin quando non ho avuto la certezza di non poter recuperare la vista non ho pensato di ricominciare, perché volevo essere sicura che non avesse creato altri problemi, quindi è stato proprio tutto fatto, improntato al momento. Quindi è stato tutto anche abbastanza veloce, perché poi i campionati italiani assoluti paralimpici di atletica leggera, dove per la prima volta, qui non mi sbaglio, hai battuto il record del mondo del getto del peso, appunto della categoria F11 e F12, perché poi credo che tiriate insieme a atleti ipovedenti. Sì, saremo accorporati tra le due categorie e quindi lanceremo con gli ipovedenti. Io sì, in poche parole, a aprile ho fatto il tesseramento e tutto, il 12 maggio ho dovuto fare classificazione e minimo per le Olimpiadi, per le Paralimpiadi. Adesso quanto hai stabilito il record mondiale di getto del peso? 15,89. 15,89. Cioè, due metri in più della prima gara che avevo fatto. Che già credo fossero, anzi, non credo, ma erano quasi 2 metri in più del vecchio record, che era 11,84. Sì. Quindi è stata un'escalation. Che speriamo tu possa continuare anche a Londra 2012. Dicevamo di quel giorno, l'11 maggio 2012, quando ci sono stati i campionati italiani assoluti paralimpici di atletica leggera. Ecco lì che emozione hai provato a tornare in pedana, ma a tornarci da atleta paralimpica. Emozione tanta emozione, anche perché ritrovarsi comunque in pedana, che è sempre stata casa mia, in poche parole, perché per 15 anni d'atletica è sempre stata la mia casa, una pedana, avere un peso in mano e ricominciare a lanciare, risentire l'urlo del lancio dopo averlo effettuato per bene. Però ecco, sono cambiate tante cose, in 3 mesi è cambiato già tantissimo. Mi sento già più un atleta. Ma questo credo che non hai mai smesso di esserlo. Il confronto naturalmente è una delle cose che la gente più si chiede. Quindi tu l'hai vissuto, il confronto fra l'essere grande atleta olimpica e l'essere grande atleta paralimpica. Grande atleta in assoluto, diciamo, ma in questo caso proprio fra grande atleta vedente allora e grande atleta non vedente. La differenza forse la devo ancora vedere. Naturalmente qui le altre battute, va bene, andiamo pure avanti. Diciamo devo sentire ancora la differenza. Forse il fare una gara a livello internazionale del calibro di una paralimpiade, forse quello mi farà rendere conto veramente qual è la differenza, ma anche se secondo me non esistono differenze, perché la stessa fatica che mettiamo noi atleti paralimpici è la stessissima fatica che mettono gli atleti normodotati, e io sono sicura che è così perché ho vissuto entrambi, o sto vivendo entrambi. Il lancio più bello, te lo ricordi, Assunta? Il lancio più bello, sì, nel 2002, quando ho fatto il record italiano a Genova, 19:20, che è ancora record italiano indoor a livello assoluto. E poi, vabbè, e quello di sabato 28, quando ho gareggiato e ho rifatto 15,89. Sabato 28 di luglio, naturalmente, sì, quel giorno in cui hai migliorato di nuovo il record mondiale paralimpico. Stai migliorandoti un po' con l'inglese, perché mi sa che sarai una delle atlete ricercate a Londra 2012, Assunta. English very well. Ah, ecco, lo sentiamo bene, va bene. Allora, naturalmente, in bocca al lupo, Assunta Legnante, grande campionessa di getto del peso, che sarà grande protagonista alla Paralimpiade di Londra 2012. In bocca al lupo, Assunta. Crepi il lupo. Bene, allora abbiamo parlato di sport paralimpico in questa bella puntata di A Tempo di Sport, grazie naturalmente a Giorgio De Luca in redazione, a Matteo Comes in regia. Buona Paralimpiade.